Good evening, ladies and gentlemen. It's showtime. C'è chi vuole fottere i meccani, yeah. C'è chi con sta roba non mi fotti il domani, yeah. E se cerchi in Italia di fare make money, aspetto, non servono le mani, ci vuole cervello, Ho sempre sognato molto di più, bro, perché non ho mai avuto niente di sicuro. Ora schiaccio sul pedale a fondo di brutto, è ora di giocare, è ora di giocarsi tutto. Qui non c'è atmosfera da wasting, non ci si spara ma ci si spacca, oh shit. Per uscire da qui ho scritto il mio CD, ora il mio flow ti schiaccia come Shaquille. Questa è la mia vita, la mia mano la scrive, da quando ho capito che non c'erano alternative. Fra, ho sempre amato raccogliere nuove sfide, ma non ho più amore perché so bene che mi uccide. Quindi sono qua per dare sfogo alle mie pagine, non pensare che sia tanto facile, man. Sto con ragazzi che, come me, sognano un giorno di guidare una Lamborghini, un Cayenne. Io gioco tutto stile blackjack come Las Vegas. Se perdo tutto sono affari miei, a te cazzo ti frega. Potrei dirti che sto bene quando ho sempre un problema, che ho dei veri amici e c'è un pugnale nella schiena. Quindi muovi il culo, socio, rimarrai dove sei. Hai una sola occasione, non esiste replay. Tu non sciuparti quella perché hai solo lei. Io dovrò sciuparti tutto ciò che I, this is my game. Sai, per ammazzare la depressione mi attacco al mic come un pugile col suo guantone. Boom boom clap, non c'è questione. Lascio il segno come Banksy senza commettere infrazioni. Quindi Player.